Un ben ritrovati insieme, benvenuti su Rock FM. La voce di Marco Gravelli prende il via anche questo venerdì, il nostro spazio di Hard and Heavy offerto da Mariposa Dischi, Corso Lodi numero 1 a Milano. Il nostro spazio live con classici e anche meno classici, con band, sì, famose, questo sì, sicuramente famose, del genere hard rock, heavy metal, thrash, power metal, in questo caso AOR. Su suggerimento di alcuni nostri ascoltatori volevano proporre ascoltare le canzoni della Live Day Journey. Come spesso accade per le band che vi proponiamo, sono più di uno gli album o i CD live pubblicati durante la loro carriera. Però noi andiamo a scegliere, insieme a Simone che è il nostro autore, il meglio, il live più esaltante, il live che maggiormente ha caratterizzato la loro carriera. Ed è il caso dei Journey con Captured. È il primo album della loro storia, uscito il febbraio del 1981. Arrivò al numero 9 in America. Tenete presente che era un doppio LP, poi ristampato anche in CD. C'erano 16 canzoni registrate in vari concerti durante il tour di supporto dell'album Departure del 1980, che li ha portati a Tokyo, Montreal e Detroit. Queste sono le città nelle quali sono state registrate le canzoni. Presente anche un brano in studio, un motivo inedito, intitolato The Party's Over. La formazione era composta all'epoca da Steve Perry alla voce, Neil Sean alle chitarre, Greg Rowley alle tastiere, Ross Valerie al basso e Steve Smith alla batteria. Andiamo subito ad ascoltare il brano che dopo l'intro apriva questo show, apriva questo concerto, motivo dal titolo Where Were You, la cui versione in studio si trova proprio sull'album Departure. Sono i Journey. We'll be right back. dall'album intitolato Cut to Red, doppio live dei Journey, il brano d'apertura del concerto Where Were You. E noi iniziamo anche la presentazione della storia di questa band americana, esattamente arrivano da San Francisco, considerata una delle maggiori, a tuttora, una delle band maggiori a livello di sound e esponenti della AOR mondiale. Il gruppo nasce nel 1973 grazie al tastierista Greg Rowley e al chitarrista Neil Schoen. Decidono di creare una band dopo aver abbandonato il gruppo di Carlos Santana. Entrambi suonavano con Carlos Santana. Cercano degli altri musicisti, tra i quali vi segnaliamo appunto il bassista Ross Valory, che militerà nella band pressoché per tutta la loro esistenza. In principio le parti vocali erano interpretate proprio da Neil Schoen e con lui alla voce arrivano all'esordio nel 75 con l'omonimo album, che si fermò lontano dai primi posti, numero 138 in America. Praticamente stessa sorte toccò anche al seguente Look Into the Future del 76 e Next del 1977. Questi risultati spinsero il gruppo a modificare un po' le coordinate musicali, da un rock più prog ad un rock più melodico, e a inserire un vero e proprio cantante. In principio fu scelto Robert Fleischmann, che a causa di divergenze musicali con il gruppo fu licenziato durante un tour, e il suo posto venne subito preso dal bravissimo Steve Perry. 1977, proveniva dagli Alien Project. Altro brano che andiamo a proporre a questo punto della loro scaletta, sono tutti classici, questa si intitola Loving, Touching, Squeezing, la formazione è quella dei Journey. With somebody else. Il Sound and Journey con le note di Loving, Touching, Squeezing, la cui versione in studio, ricordo, la potete trovare sull'album intitolato Evolution. Siamo al 1977, abbiamo detto che Steve Perry entra a far parte della band in questione e a questo punto esce l'album Infinity. L'album permette alla band finalmente di ottenere un buon successo, arrivano al numero 28 in America, anche se qualcuno non è d'accordo, qualcuno all'interno della band, il batterista. Batterista che viene quindi licenziato, al suo posto arriva Steve Smith. Comincia ora la vera e propria ascesa verso il successo da parte della band, che si concretizza con il sesto album della loro produzione, Departure, del 1980, che arriva al numero 8 nelle classifiche di vendita, spinto soprattutto da un singolo intitolato Anyway You Want It, che poi ascolteremo. Questo successo gli va e poi la pubblicazione del live che stiamo ascoltando. Questa è Wheel in the Sky. I'm Will in the Sky, grandissima interpretazione ancora una volta, questo è veramente un grande album, un doppio live, abbiamo detto, pubblicato nel 1981, registrato dal vivo durante il loro tour mondiale dell'80, Tokyo, Montreal, Detroit. Continuiamo nell'esposizione della storia. Arriviamo purtroppo al termine di questo tour che ha portato alla pubblicazione di Cut Red, appunto questo doppio album dal vivo, quando il tastierista, membro fondatore Greg Rowley, abbandona la band, ma da lui il suggerimento, secondo me quello che deve prendere il mio posto è lui, cioè Jonathan Cain, che si rivelerà importante per la band. In effetti con lui comincia una nuova fase vincente, già con l'album del 1981, Escape. È praticamente considerato il loro capolavoro, arriva al numero 1 in America, vende più di 10 milioni di copie, un bel botto, eh? Il successo è confermato anche con un altro capolavoro, Frontiers, 1983. Nonostante questo però cominciano i primi problemi all'interno del gruppo, con il cantante Steve Perry che inizia anche una carriera solista e nuove divergenze musicali portano al licenziamento del bassista Valerie e del batterista Steve Smith. La lineup rimane a tre elementi, con questa formazione pubblicano Raisin on the Radio, 1986, che nonostante i problemi arriva al numero 4 in America, però a quel punto la band non ce la fa più, si scioglie nel 1987 e ognuno inizia una propria carriera solista. Vi citavo un singolo importante nella loro storia, Anyway You Want It. E allora lo andiamo a riproporre e ritrovare. Ricordo che Anyway You Want It, nella versione in studio, si trova sull'album Departure. Night. Any Way You Want It, dal vivo da Cab to Red, nella prima parte del nostro spazio di questa sera di Hard and Heavy. Abbiamo detto quindi lo scioglimento del 1987, una reunion, sì, la reunion c'è sempre. Ritornano insieme nel 1995 con la formazione classica, quella di Escape Frontiers, e nel 96 arriva anche il nuovo album Trial by Fire, che riscuote nuovamente un grande successo in linea con i loro precedenti lavori. Però Steve Perry alla fin fine se ne va e anche Steve Smith, che è il batterista. I loro posti vengono presi alla voce dal bravo Steve Augeri, ex Taichetto, e dal batterista bravissimo Dean Castronovo. Con questa nuova lineup pubblicano nel 2000 l'album Arrival, ben accolto in Giappone, però non molto in America, stranamente. Lo scorso anno c'è da segnalare che per problemi alle corde vocali di Steve Augeri se n'è andato. Il suo posto è stato preso da Jeff Scott Soto, già con Malmsteen e con i Talisman e con tantissimi altri gruppi come special guest. Però durante il tour, anzi forse alla fine del tour che li ha portati anche in Europa, vicini all'Italia, in Svizzera, Jeff Scott Soto è stato licenziato e la band ha motivato che hanno deciso di intraprendere strade differenti. Attualmente i Journey si stanno dedicando alle loro famiglie e a scrivere brani. Chissà se un domani poi li rivedremo insieme e incideranno altri album, eccetera. Vabbè, il futuro chi lo sa cosa prevederà. Intanto chiudiamo questa nostra prima parte con un altro brano, un altro classico della formazione, motivo che si intitola Anytime Journey. Yeah.